Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie, grazie per la cortese attenzione e grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buone giornate.